известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Era qua che volevamo arrivare, a questo I Don't Like Mondays, che appartiene, no, alla storia del pop internazionale. Non mi piacciono i lunedì, una storia raccontata da quello che poi sarebbe diventato il padrino dello star power, del pop benefico e di iniziative straordinarie come Live Aid. Indovinate un po' di chi stiamo parlando, ma in ogni caso I Don't Like Mondays, non mi piacciono i lunedì. Ci sono certe volte in cui mi sveglio il lunedì e alcune delle notizie che sono le prime a colpirmi, a venirmi in un certo senso un po' addosso, sono talmente fastidiose, talmente disturbanti da rendermi immediatamente quella settimana che ho davanti come una specie di tunnel oscuro, carico di oscuri presagi, di preoccupazioni. Nella storia che stiamo ascoltando in sottofondo finisce male, finisce addirittura che ci va di mezzo un innocente. Invece nelle storie che leggiamo sulle cronache di oggi, che ancora in questi istanti CNN ci sta rimandando, Fox News ci stanno rimandando dagli Stati Uniti, veniamo a sapere che una bomba atomica dello stesso potenziale di quello utilizzato a Hiroshima, questa è una notizia appena trapelata da fonti russe, è stata al centro di un esperimento, il secondo esperimento dei nordcoreani di questa portata. Si parla di tre missili lanciati da Pyongyang, un missile a corto raggio Musidan verso le 12 locali, le 5 in Italia, due a corto raggio da Wonsan verso le 10 ore locali, dice l'esercito sudcoreano. Si tratta di nuovi test nucleari e missilistici che rappresentano una sfida all'intera comunità internazionale. Ha già parlato Barack Obama, ha parlato di minaccia per la pace. Ha già parlato anche la comunità europea, si è fatta sentire per voce del ministro ceco degli affari esteri che si chiama Jan Kout, che ha detto si è detto molto preoccupato. Ministro Ferrero Waldner ha detto che il test nordcoreano è molto molto inquietante da parte praticamente di tutti i protagonisti della diplomazia europea. Arrivano ferme condanne, arriva preoccupazione naturalmente dalla Corea del Sud, segnali come di consueto contraddittori invece arrivano dall'Iran, dove Mahmoud Ahmadinejad, rispondendo a una domanda sull'esperimento condotto dalla Nord Corea, ha detto: raccomandiamo a tutti i governi di non sprecare il denaro del popolo per la proliferazione nucleare, tutti i paesi che ne sono in possesso dovrebbero sentire l'obbligo di disfarsi delle armi nucleari, ma bisognerebbe cominciare dai membri più potenti della comunità internazionale. Se lo faranno loro, anche gli altri seguiranno, e la provocazione è subito evidente. Ma la preoccupazione più grossa invece è stata espressa dalla Cina, che da un evento di questo genere, non tanto dall'evento diretto ma dalle eventuali conseguenze che un evento di questo genere, trasformato non più in esperimento ma in realtà in episodio della storia dell'immediato futuro, dalle conseguenze che ne potrebbero nascere, è particolarmente angosciata. Abbiamo chiamato Saro Capozzoli a Shanghai per sentire quindi quali siano le reazioni a caldo di questo episodio, quali siano gli scenari, quali siano gli atteggiamenti della Cina, almeno al primo apparire, nei confronti di questo test nucleare. Abbiamo in linea Saro, buon pomeriggio Saro. Sì, buon pomeriggio a voi. vasta eco, molto rumore attorno a questa notizia, c'è stata? Sì, c'è stato, diciamo, sui giornali è ancora presto, usciranno domani, no? con la notizia. E alcuni giornali della sera hanno già dato la laconica, diciamo, informazioni di questa esplosione, cioè di questo evento. Però sui canali, in televisione, ma anche in radio, no? Andando in taxi si sente appunto in radio, ci sono delle specie di blog parlati, no? Appunto, uh-huh. Sono delle trasmissioni dove la gente si può esprimere, certo. Si è avvertita la preoccupazione, ecco. Tenete conto che la Cina è con la Corea del Nord, la Cina è sempre stato un forte alleato, diciamo, un po' un bilanciere della Corea del Nord, certo. E questo, diciamo, è un esperimento che preoccupa, tant'è vero che è stato subito condannato. Hanno già, da quello che io so, hanno già mandato delle unità speciali sul confine a monitorare anche la radioattività, perché anche qui c'è questo aspetto, che anche se è stato un esperimento sotterraneo, ci sono sempre dei rilasci di radioattività nell'atmosfera fino a un certo punto, ecco. Quindi, sì, fonti russe per ora danno notizia di tranquillità da questo punto di vista, da Vladivostok, che mi sembra sia una cinquantina di miglia dal confine nordcoreano e non lontano dal luogo dell'esperimento, pare che i livelli di radioattività siano sotto controllo. Ma sì. Saro, qual è dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, la possibilità di controllo che la Cina può esercitare in un momento come questo sulle mosse, le contromosse, sulle decisioni, alcune spericolate come questa a cui stiamo assistendo da parte della Corea del Nord? Fino a dove può arrivare? La Corea del Nord penso che si stia alienando l'alleanza con la Cina. La Cina è molto irritata per quello che sta accadendo. La Cina si sta preparando a superare questa crisi, stanno investendo tanti soldi in questa crisi, si stanno preparando all'Expo, si stanno preparando i vari eventi che al 60° anniversario della rivoluzione. Cioè, la Cina sta pensando a come riuscire fuori da questa situazione che sta coinvolgendo un po' il mondo, e ci stanno riuscendo da quello che si vede. Quindi questo è un qualcosa che riporta la Cina degli incubi, no? Come è successo nel 2001-2002, non so se voi vi ricordate, certo. Quando c'era l'aspetto della fame, la carestia che stava spingendo milioni di nordcoreani verso la Cina, tant'è vero che la Cina ha dovuto rinforzare le frontiere e hanno costruito migliaia di capanne, proprio di baracche sul confine, proprio per fermare eventuali profughi da un eventuale conflitto. Ecco, quello che preoccupa la Cina, il fatto di dover poi supportare una guerra ai confini e non poter fare a meno di essere coinvolta dal punto di vista umano e probabilmente dal punto di vista militare. Questo è un qualcosa che la Cina adesso non vuole entrare in un conflitto, ha fatto di tutto per non cadere in un conflitto con Taiwan. E questo è un qualcosa che io l'ho avverto anche con le persone, i manager cinesi di grandi aziende che conosco, eccetera, che sono irritati per questo qualcosa che non prevedevano che potesse accadere. È una cosa gravissima quello che è successo oggi, forse in Occidente non ci si rende conto, ma certamente questo dovrà portare ad una reazione da parte delle Nazioni Unite e della comunità internazionale. No, ma hai ragione, tra l'altro come sempre accade con notizie di questo genere, faticano, no, a guadagnare i titoli centrali dei principali organi di informazione, sembra sempre qualcosa di lontano, poi comunque sì, un esperimento, un test, ci sarà stato un controllo, ma mi sembra adesso nelle ultime ore soprattutto la notizia stia salendo. Ma per concludere, Sara, come dicevi, c'è anche un problema profughi, c'è anche una paura, no, nel disegnare uno scenario virtuale da parte della Cina di diventare poi inevitabilmente il ricettacolo di chi a un certo punto non può far altro che scappare. Sì, questo io ho visto con i miei occhi andando verso nord, da nord di Dalian, andando verso il confine della Corea del Nord, ci sono queste baraccopoli che sono vuote, sono certo. Di pronte, perché certo, erano state certo. Preparate, ripeto, proprio nel periodo in cui stavano per scappare già migliaia di nordcoreani, perché il problema che ha la Cina è quello di prendere e peccare questi nordcoreani e riportarli in patria, anche per un discorso di come dire, di non andare in conflitto diplomatico con il regime. Cioè, quello che succede è che purtroppo con questo esperimento la Cina adesso dovrà fare i conti con una situazione anche umanitaria che non potrà certamente risolvere con dei rimpatri di profughi, perché saranno certamente migliaia, centinaia di migliaia, dovesse scoppiare un conflitto. Ecco, una cosa che poi caro dire, appunto, che secondo me questo esperimento può essere anche una specie di dimostrazione di forza interna per il regime. Certo. Ci deve essere qualcosa, deve essere successo qualcosa dentro il regime che ha spinto questo passo, una dimostrazione di forza, e anche può essere letto da un punto di vista di dimostrazione interna di portare avanti certi discorsi. Va bene, naturalmente continueremo a seguire questo scenario. Ringraziamo Saro Capozzo e ci scusiamo con gli ascoltatori, la qualità del collegamento non era granché. La fonte che ha detto che il preavviso del test atomico sarebbe arrivato a Washington attraverso il canale di New York, un'allusione ai contatti tra diplomatici nordcoreani alle Nazioni Unite e funzionari americani. È intervistato dalla CNN, il capo dello Stato Maggiore Interarmi, l'ammiraglio McMullen, ha detto che il test non è stata una sorpresa per gli Stati Uniti a causa della sfida sempre più belligerante lanciata dal regime di Pyongyang, ma di fatto la notizia è filtrata solo alcune decine di minuti prima che il fatto fosse reale. Ora ci informano che si è in attesa, la Casa Bianca è in attesa anche di una presa di posizione ONU ufficiale sulla questione. Come diceva Saro poco fa, è una pessima notizia per cominciare la settimana. Tra poco ne metteremo al vaglio un'altra che non ci sembra proprio che sia una notizia rosa, ma tra poco. Per tirarci un po' su abbiamo scelto Eric Clapton, siamo andati sul sicuro per aprire la settimana di Jefferson, che vi saluta, vi accoglie e spera di farvi un buon servizio informativo. Vi dicevamo, un'altra notizia che ci sembra non prendere una piega particolarmente positiva, soprattutto da come si era annunciata, no? dal modo in cui l'avevamo seguita e monitorata nel suo svolgimento diretto. Parliamo della visita di Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, l'incontro con Barack Obama, ma il tentativo di far ripartire il tavolo delle trattative, o comunque se non altro di porre le basi di una direzione da seguire insieme con gli altri partner, naturalmente indispensabili a una trattativa, a un rapporto di questo genere, e poi soprattutto la presa di contatto umano, perché conta anche il livello umano dei rapporti che i leader stabiliscono tra di loro. Avevamo avuto, anche consultando i nostri esperti di settore, abbiamo parlato con Ugo Tramballi, con Mario Platero, sensazioni piuttosto scettiche riguardo alla riuscita del meeting. Il ritorno era stato anche il ritorno in Israele di Netanyahu, era stato costellato anche da una gaffe, pare che in aereo fossero state pronunciate frasi tutt'altro che entusiastiche nei confronti di Barack Obama. Adesso esce la notizia che Netanyahu avrebbe affermato nel corso della riunione di governo di ieri che nessun nuovo insediamento ebraico sarà creato in Cisgiordania, parola tabù per me, ma al tempo stesso ha detto che negli insediamenti insediamenti esistenti dovranno essere soddisfatte le necessità derivanti dalla crescita naturale della popolazione, che è un lunghissimo giro di parole per dire facciamo un po' come ci pare, poi dopo prenderemo istruzioni quando come dire, ci sarà già una interattività, no, di iniziative e di rapporti. Il premier Netanyahu ha confermato che gli avamposti di insediamenti retti dai coloni senza il permesso dell'autorità saranno comunque sgomberati. Noi abbiamo il dovere di imporre il rispetto delle leggi, non erigeremo nuovi insediamenti, ma è illogico non dare risposta alle necessità derivanti dalla crescita naturale. Poi ci sono problemi di confini su cui già si comincia a litigare, quando, come ogni volta che ci si avvicina a una possibile trattativa, quali confini di Israele. Ma in tutto ciò, poco fa Emiliano, hai sentito Maria Grazia Enardo, no, sulla questione? E ci ha confermato più o meno questo tenore di non grande idillio tra, diciamo così, per usare un eufemismo, tra Netanyahu e Obama. In particolare la prima domanda che gli ho chiesto è proprio qual è lo stato dell'arte, qual è lo stato dei rapporti tra i due leader, israeliano e americano. I rapporti sono in termini diplomatici piuttosto freddi, ma in fase di... Una cosa abbastanza grave che è stata rivelata da indiscrezioni che partono dai consiglieri di Netanyahu di ritorno con lui da Washington, lo hanno definito il presidente Obama childish e hanno detto che nutre illusioni su come risolvere la questione Israele-Palestinese. Questa è affermazione piuttosto grave e molto scortese verso il presidente di quello che è una superpotenza. E detto questo, Israele è estremamente preoccupato perché appunto la prima battaglia, quella immediatamente visibile, sarà sugli insediamenti. È vero che il governo si è impegnato a non costruirne altri e si spera che mantenga, ma la crescita naturale degli insediamenti è molto forte, anche perché hanno un tasso di natalità le coppie giovani degli insediamenti piuttosto alto rispetto a quello di Israele entro i confini del 67. Quindi anche su questo un contenuto aperto, come lo è anche su Gerusalemme e sulla crescita naturale e dentro Gerusalemme. Quindi su queste posizioni le distanze tra Israele e Stati Uniti a questo momento sembrano inconciliabili, sembrano insanabili. E lo saranno probabilmente di più dopo il 4 giugno, perché contrariamente a quanto si credeva qualche settimana fa, il presidente Obama non andrà in Israele. Questo è fatto abbastanza curioso, di solito i presidenti americani che vanno in Medio Oriente fanno addirittura base in Israele, ma Obama non ci andrà, farà un discorso importante che non conterrà un piano di pace, ma probabilmente sarà un discorso pensato per il grande mondo arabo e islamico, e Israele in questo sarà puramente incidentale. Secondo te il governo americano, Washington, scommette sulla durata di questo governo Netanyahu o è pronto ad un rimescolamento di carte in casa israeliana? Ci sono indiscrezioni, non saprei quanto autorevoli, che parlano dell'attesa della caduta del governo Netanyahu e dell'arrivo di un nuovo governo che non può che essere, allo stato delle cose, una sorta di grande coalizione, quindi con il rientro di Kadima, o da solo come perno del governo, o soprattutto con una nuova coalizione che comprenderebbe automaticamente uno scontentissimo Netanyahu. Well, they're still racing out the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now here she's got a house up in Fairview, in a style she's trying to maintain. Folks spend their whole lives trying to keep it. They carry it with them every step that they take. Till someday that Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. E Obama dalla Casa Bianca pare che a minuti parli in riferimento all'evento, all'esperimento nucleare in Nord Corea. Ci sarà una presa di posizione ufficiale da parte della sua amministrazione, danno già gli alert, gli avvisi, le televisioni news su cui siamo sintonizzati. Abbiamo nel frattempo però un gradito ospite in studio, è tornato a trovarci Umberto Bertelè, presidente del MIP, la Business School della Politecnico di Milano, attraversando il caldo romano, giustamente il caldo destabilizzante. Benvenuto. Insieme proviamo a fare due chiacchiere e qualche aggiornamento e qualche considerazione attorno, tanto per cominciare, al grande affare Fiat Chrysler. E Bertelè, io vorrei partire dal soppesare, dal capire, dallo spiegare ai nostri ascoltatori e certamente anche a me, per esempio una agenzia di un paio di giorni fa che ci informa che il gruppo Fiat con Chrysler e GM formerà un gruppo con ricavi annuali pari a 80 miliardi di euro, secondo quanto si è letto nelle slides, nella presentazione fatta da Sergio Marchionne alla 12ª Italian Conference di Unicredit a Roma. Insomma, sono cifre che fanno impressione, sembra il bilancio di una nazione di discreto calibro. È davvero tutto così su una rampa di lancio tinta di rosa, non so come dire, di ottimismo e forse anche di prospettive magnifiche? Beh, la cifra nasce dal fatto che si mettono assieme i dati della Fiat, però la parte automobile, parte motori, della Chrysler e appunto di Opel. Quindi sulla cifra non c'è niente di sorprendente. Quello che mi sembra che sarà la grande sfida è quello di prendere tre società di cui la Fiat appena risanata ma con ancora qualche problema, certo, la Chrysler in stato non brillantissimo e la Opel la stesso, creare una società che sia unitaria, che abbia un senso, creare una società che guadagni, avere dei profitti sufficienti a rimborsare quelli che sono i soldi che vengono da una parte del governo americano e dall'altra dovrebbero venire dal governo tedesco. Quindi mi sembra che il grosso problema sia, mettendo assieme tre realtà diverse e diciamo non tutte brillantissime, riuscire a creare quello che è il secondo attore a livello mondiale ma capace di competere e capace di far soldi. Ecco, ma dov'è che questa società diventa tale, cioè al di là dell'entrata di Fiat, del tentativo di salvare le sorti appunto assai malferme di questi marchi americani, della ripartenza recente di Fiat, ma dove tutto ciò poi diventa veramente un gruppo, non so come dire, un progetto che ha una sua, immagino, unità? Ecco, io credo che Marchionne si senta soddisfatto dei risultati che ha raggiunto con Fiat, senza dubbio molto buoni. Qui la sfida mi sembra moltiplicata. Una perplessità che ho io, però mi auguro che poi, se le cose andranno va tutto benissimo, è sul gruppo dirigente che dovrà condurre questa operazione. Cioè, il gruppo dirigente di Fiat attualmente è un gruppo dirigente compatto, brillante, ma abbastanza ristretto. In questo momento c'è la necessità, poi, se verranno fatti tutti gli accordi, di mandare gente a gestire queste diverse imprese, ristrutturando in maniera piuttosto integrale. Mandarli fisicamente di là, insomma. Mandandoli fisicamente di là. Ci saranno delle persone sicuramente di queste imprese, però è importante che ci sia un gruppo dirigente compatto, che si, diciamo, operando congiuntamente nelle diverse società, vada verso quella forma di cui giustamente lei sta parlando, certo, cioè di creare una sola società, certo, da tre società, certo, diverse, che avrà un po' di marchi diversi da gestire, ma deve avere un'impronta comune. Certo. Soprattutto non è sufficiente dire ho un numero di automobili annuo molto alto. Abbiamo visto come General Motors pur con un numero più alto, certo, non sia riuscito ad aver successo, occorre che venga ricongegnato tutto in maniera ad avere il massimo di efficienza, di piattaforma, di stabilimenti, di marketing, eccetera. Quindi un'impresa grandiosa. All'origine di tutto c'è comunque il successo del rapido rilancio, insomma, dello sbrigativo rilancio Fiat. È da lì che tutto questo è io credo che abbiano giocato due fatti: uno, questo successo nel rilancio Fiat; secondo, questa situazione stranissima in cui è permesso a un attore valido come vogliamo, ma senza soldi, certo, di sperare di, certo, costruirsi un impero, praticamente di sedersi a un gran tavolo, senza, certo, mettere fuori soldi, certo, e giocando sui soldi pubblici che vengono messi a disposizione nei diversi paesi. Un'informazione accessoria: il prezzo del petrolio ultimamente ha ricominciato a essere più vivace, insomma, che nelle ultime settimane. È un'informazione di cui va tenuto conto in relazione a queste operazioni, o resta, come dire, un percorso a sé stante? Ma io credo che se il prezzo resterà sui livelli visti in queste ultime settimane, torniamo un po' a quella che era la situazione ante salita, certo, che era durata per 3-4 anni. Vorrei dire una cosa: che un prezzo del petrolio troppo basso io credo che sia negativo, perché allontana ogni ricerca; secondo, mette fuori uso una parte di compratori del mondo, certo, tipo la Russia, e quindi dà dei problemi all'equilibrio dell'economia mondiale maggiori dei vantaggi che porta. Naturalmente, se il sistema di speculazione che gira in questo caso dovesse portare a prezzi troppo alti, verremo a avere viceversa dei riflessi nuovamente negativi dal punto di vista del mercato. Anche se per Fiat il fatto che si privilegino le macchine piccole e che consumano poco non è un fatto sicuramente negativo. Certo, certo. C'è un agente, un attore in questa trattativa che ha contato tanto, il nuovo presidente americano Obama, che ha auspicato e favorito, e poi anche posseduto una Fiat, quindi chi meglio di lui, insomma. Ma comunque Barack Obama nel weekend, nel corso di una intervista televisiva, ha detto una cosa che vorrei sottoporre all'attenzione di Bertelè. Ha detto di sperare che GM e Chrysler escano dalla ristrutturazione, il virgolettato è, più agili e combattive e più competitive. Il presidente americano avrebbe detto che l'obiettivo dei due colossi dell'auto dovrà essere quella di immettere sul mercato prodotti che piacciono agli americani. A me quest'ultima osservazione colpisce, insomma, no? L'affidamento a un gruppo di abili manager italiani per prodotti che piacciono agli americani, come la valutiamo? Beh, questo è un altro dei fenomeni abbastanza straordinari. Non è tanto un problema di Chrysler non più americana, perché non dimentichiamoci che Chrysler è passata attraverso Daimler e poi è finita nelle mani di un fondo, certo, quindi era un'impresa che già non era più statunitense. Però il fatto che un presidente degli Stati Uniti si metta a lodare per la capacità tecnologica un'impresa del nostro paese era un qualcosa su cui credo che pochissimi di noi avrebbero scommesso fino a pochi mesi fa. Un'impresa sulla quale poi, insomma, anche la critica italiana non è stata morbidissima fino a tempi recenti. Adesso poi sono cambiati i venti, magari, che tirano. Ma insomma, sì, fino a tempi recentissimi. Avevamo un gioiello in casa e non ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti. Riprendiamo tra qualche istante con Bertelè, perché sta parlando in questo momento Barack Obama. Ve lo mandiamo in diretta così com'è, cerchiamo di tradurre il discorso. Non regime that all countries have responsibilities to meet. In this effort, the United States will never waver from our determination to protect our people and the peace and security of the world. Thank you, guys. Discorso breve. Barack Obama se ne va immediatamente al Giardino delle Rose dopo aver rilasciato la comunicazione. Mi è sembrato più che altro un atto dovuto in questo momento da parte della Casa Bianca, che non può, evidentemente non vuole attendere comunicazioni ufficiali da parte dell'ONU. Ha detto naturalmente che il compito primario del Presidente degli Stati Uniti è vigilare e sorvegliare che la sicurezza del suo popolo sia sempre il meglio garantita possibile e che di conseguenza da questo punto di vista verranno valutate le condotte e gli eventi preoccupanti come quello appena andato in scena in Nord Corea. Arrivano le notizie del traffico e poi continuiamo a parlare con Bertrè e parliamo proprio di un altro interessante aspetto di una intervista appena fatta da Barack Obama. Aspettando tra l'altro l'uscita delle prime agenzie relative alla comunicazione di Obama sui fatti della Nord Corea, vedrete che nelle prossime ore prenderà certamente quota la notizia. Ma siamo in studio invece in compagnia con Umberto Bertelli, presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Abbiamo commentato l'avvicinamento dell'affare Chrysler Fiat, per come poi si va configurando anche come una credo dovrà diventare alla fin fine una realtà di mercato. Un commento volante invece su quello che sta succedendo da questa parte dell'oceano, che lì che venti sente spirare riguardo a Opel e al fronte tedesco. A me sembra una situazione resa estremamente complicata, dico una banalità che sanno tutti, dal fatto che le elezioni politiche sono vicine. Certo. Quindi è una trattativa che ha una parte economica che forse è piccola rispetto alla parte politico-sindacale. Questo lascia molte preoccupazioni, perché se pur di vincere si è disposti a mollare su alcuni di quelli che sono i presupposti per un futuro successo, per una futura crescita del gruppo, potrebbero le cose andare bene adesso ma venire fuori problemi grossi nel futuro. Dunque invece vorrei tornare a questa intervista che Barack Obama nel weekend ha rilasciato a C-SPAN, che poi è uno dei punti informativi ritenuti più imparziali in quanto, tra virgolette, pubblico, per quanto ci può essere di pubblico nella emittenza televisiva americana. E a un certo punto è stata fatta al presidente Obama una domanda assai particolare, a cui ha dato una risposta assai particolare, che poi è una roba che, come dire, ci gira un po' in testa a tutti quando si pensa all'America che fa questi interventi per miliardi di dollari, che dice di essere indebitato per cifre che non riesco neanche a pronunciare. Insomma, a un certo punto l'intervistatore Steve Scully gli ha chiesto, dice, insomma, qui pare dai numeri che abbiamo sott'occhio che c'è un debito di 1,7 trilioni, che sarebbero tradotti in linguaggio italiano un trilione, cos'è? Mille miliardi di euro, di dollari, fatte le debite proporzioni, con un deficit mille miliardi con un debito di 11 trilioni di dollari. Caro Presidente, ma non è che qua finiscono i soldi a un certo punto? E Barack Obama ha detto candidamente, ma in realtà la possibilità che noi finiamo i soldi esiste realmente, fatto sta, vorrà dire che se questo avviene ci sono alcune cose che non potremo fare oppure che dovremo fare in un modo assai particolare, e ha cominciato a parlare fondamentalmente di interventi sulla sanità americana, uno dei grandi imbuti che succhia denaro allo Stato americano. Ma è davvero una prospettiva valutabile che gli americani finiscano, il governo americano finisca i soldi? Beh, c'è questo fatto sconvolgente della perdita della AAA degli inglesi, che ha fatto nascere negli Stati Uniti il problema se veramente gli Stati Uniti meritano la AAA. Certo. Dopodiché c'è da chiedersi cosa voglia dire la AAA. Certo. Cioè chi è che garantisce di essere più affidabile degli altri. C'è un grosso problema che presentava in questa intervista che ho visto Obama, corretto, che è quello della compatibilità degli Stati Uniti nei prossimi anni, e mi sembra che lui stia cercando di muoversi con tutte le difficoltà in alcune direzioni diverse per andare a sanare quelle che sono, come posso dire, le differenze più palesi fra l'economia americana e quella europea. Faccio due esempi: i consumi americani di petrolio, nella fattispecie di benzina, sono infinitamente superiori, certo, per unità di reddito a quelli degli europei. Certo. E questo è sicuramente un problema molto grosso. Secondo, le spese sanitarie americane sono molto più alte di quelle europee, e per giunta, mentre le europee hanno in molti paesi una copertura della popolazione totale, negli Stati Uniti non ce l'hanno. Allora io credo che Obama si trovi davanti a una serie di problemi, come diceva, contingenti per mettere a posto la situazione della, certo, crisi, ma che poi prospetticamente debba andare a correggere alcuni eccessi che erano tollerabili per un'America estremamente ricca, non sono più tollerabili adesso, e soprattutto il rischio forte è che invece che andare a un'assistenza estesa all'intera popolazione si ritrovi a dover ridurre o a vedere ridimensionata quella esistente. Cioè, lei mi sta dicendo, dopo decenni che abbiamo parlato di americanizzazione a tutti i costi, soprattutto dei paesi della vecchia Europa, stiamo assistendo a una specie di europeizzazione d'America in un certo senso, comunque a un tracimare verso i ritmi soprattutto di consumi e di abitudini. Io credo che gli europei abbiano imparato tantissimo dagli americani in certi settori, credo che in questo momento in alcuni ambiti gli americani debbano capire che forse gli europei sono stati più bravi di loro e quindi fare delle correzioni. Grazie, grazie a Umberto Bertarelli, presidente del MIP. Dunque, la Corea del Nord si chiama addosso più forti pressioni internazionali con l'esperimento nucleare di oggi e i successivi test missilistici. Questa è una delle dichiarazioni di Obama. Più forti pressioni internazionali, ha espresso la forte condanna degli Stati Uniti dopo i test nucleari. Vediamo ancora altre dichiarazioni di Obama, ancora relative all'interesse primario, naturalmente all'obbligo della Casa Bianca garantire la sicurezza degli americani. Giada Soming, l'arte ha svolto. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail è jefferson2@radio24.it, le pagine Facebook sono redazione Jefferson2 e Jefferson2 Radio 24 Express Yourself. Andiamo in replica a mezzanotte, il podcast come sempre sul sito della radio, la diretta domani dopo le 4 qui su Radio 24, ci sentiamo. 去学生雅兴，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。